Senti Maurizio, io ti faccio sentire una canzone sì, adesso. Sì, vediamo, vediamo. Poi mi dici cosa ne pensi. Sì, ok. Va bene? Chiudi gli occhi e lascia che ti porti via con me. Mentre rallenta il mondo intorno, è notte oramai. Naufragando dentro tra emozioni complici, saprò tenerti stretta a me. Le labbra mordono mentre intorno le ombre si amano. Di quanti anni siamo tornati indietro, Maurizio? È abbastanza, ma sono loro? Sono loro. Io li ho scoperti proprio con questa canzone, sono gli Studio 3 ovviamente. Questa è una canzone, un estratto dal secondo album. Sì, del 2007. Del 2007. Prima erano venuti a successo con Forse un Angelo, esatto. Che è stata una canzone che quella fa, tra l'altro famosissima. E adesso quest'anno esce un disco nuovo, anzi è già uscito un singolo nuovo, poi in inverno probabilmente uscirà l'intero lavoro. Ho detto giusto, Marco? Hai detto giustissimo. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Ciao, benvenuto a Bruno Radio Veneto. Marco Venturini, che è uno dei componenti degli Studio 3. Esattamente. Come stai innanzitutto? Benissimo, voi? Non c'è male, stiamo bene. Quando si sente la bella musica si sta sempre bene. Bisogna dire, cari ascoltatori, che gli Studio 3 non sono mica di primo pelo, hanno cominciato nel 2006, vero Marco? Esattamente, nel 2006 oserei dire quasi per gioco, nel senso che noi, ognuno di noi aveva un lavoro, eravamo dipendenti, diciamo, di aziende, io lo facevo il magazziniere, figurati. Quindi abbiamo fatto questo brano, che poi il primo che era solo te, poi Forse un Angelo, e abbiamo detto, proviamo con questa casa discografica, ha detto, dai, proviamo, voi non lasciate il lavoro, il mondo discografico è molto difficile, ho detto tenete il lavoro stretto perché vediamo se funziona, poi è andata benissimo, ben venduto 30.000 copie, sì, col primo album. Un successo non da poco. Esattamente, quindi ci siamo ritrovati catapultati in questo mondo che è fantastico, direi, anche se non è tutto oro quel che luccica, diciamo così. Come sempre. Marco, tutti dicono così, cioè anche perché è facile arrivare al successo, ma poi si fa anche molto presto a sparire. Mamma mia, esattamente, esatto. Ma voi non siete mica spariti, siete rimasti sempre mai sulla cresta dell'onda, siete riusciti sempre a girare e sempre a essere presenti. Questo è importante. Esatto, noi abbiamo la fortuna che siamo tre teste, tre idee, tre modi di scrivere musica diversi. Quindi i nostri fan, i nostri ascoltatori non sono... mai stanchi, perché trovano sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, un singolo diverso dall'altro, sia per lo stile che per proprio i testi, eccetera. Quindi è bello perché ci divertiamo anche così a seguire le richieste, tra virgolette, dei nostri fan, cresciamo con loro, diciamo. Io ti blocco subito perché mi è già arrivato un SMS dei tuoi fan. Si dice: buonasera Blu Radio Veneto, sono Andrea Lionello, amico e fan degli Studio 3. Volevo dirgli che li sosterrò e che ci sarò sempre per loro, come ho fatto in tutti questi anni. È dal 2006 che li seguo e ormai ci lega da tanti anni un bel rapporto di amicizia. Sono dei cantanti eccezionali, delle persone magnifiche. Grazie per tutto, un abbraccio. Lo conosci? Grande, cioè, beh certo, guarda, noi veramente poi i fan più noi lo chiamiamo il nostro zoccolo duro di fan, che praticamente sono nati con noi nel 2006, ci hanno conosciuto e ci seguono tuttora, quindi alcuni veramente come Andrea Lionello, come tanti altri, li conosciamo proprio di persona e siamo più amici che fan ormai, ovviamente. Ma questa è una bella cosa, Marco, assolutamente molto, una molto bella cosa, questo legame continuo con i fan, questo scambiarsi, questo dire le proprie opinioni, scambiarsi amichevolmente, sentire l'appoggio dei fan, sentire proprio da vicino, è una cosa incredibile. Hai ragione, è proprio fantastico, anche perché ci troviamo proprio a confrontarci con altre persone, con amori nati anche tra fan, quindi ci sono fidanzamenti, figli, quindi... Ah, che bello questo! Guarda, anch'io ti dico che sto diventando papà, tra un mese e 10 giorni è la scadenza. Posso dirti che è la cosa più bella al mondo, essere genitore. Non vedo l'ora, infatti. E auguri e complimenti. Grazie. Anche per la moglie, ovviamente. Grazie mille. Allora, dove eravamo rimasti? Dischi, praticamente 5 album e una raccolta intanto. Esattamente, sei in totale più o meno 6, ovviamente è stata una raccolta che conteneva 3 inediti, poi dei pezzi in spagnolo. Quindi noi non ci siamo mai fermati fondamentalmente, perché quello che uscirà quest'inverno è il 7° album e noi sono 7 anni e mezzo che siamo in giro, quindi... Ma siete molto, molto attivi, insomma, proliferate ogni anno un disco, praticamente. Sì, quasi. Infatti, come ti ripeto, noi siamo in 3 a scrivere, abbiamo tantissimo materiale, anche perché ci piace proprio scrivere, il nostro pane quotidiano. Certo. Anche perché, non capisco quando molti artisti non scrivono e cantano canzoni di altri, io non ce la farei proprio. Marco, visto che ci siamo, possiamo ricordare gli altri due? Sì. Certo, Gabriel e Vetro li saluto, sicuramente staranno ascoltando in qualche modo, perché anche loro saranno connessi. Ricordiamo che Gabriel è Salvatore Valerio, mentre sì, Vetro è Andrea Vetralla. Sì. Tutti tre. Infatti, guarda, se ci volete cercare su Facebook anche di persona, nel senso, ognuno di noi ha le nostre alla pagina personale. Invece, se no, Studio 3, basta scrivere Studio 3, si trova la pagina ufficiale. Sì, ho visto anche il sito, che è bellissimo, insomma, tra l'altro. Trovate di tutto e di più nel sito, Grazie. È molto fornito. No, siete una bella realtà della musica italiana voi, insomma, Grazie, guarda, ci siamo... Con gli anni ci stiamo, diciamo, ancora più... Stiamo ancora più crescendo, diciamo così. Anche perché per ora ci arrivano anche tanti complimenti anche dalle radio, come può essere anche la tua, quindi è bello sentirsi apprezzati, insomma, anche dagli addetti ai lavori, non solo dai fan. Poi io te la strappo già una promessa, vero? Non puoi dirmi a tutti i tuoi fan che vi stanno ascoltando, ma vi voglio qui in studio per un live tutto vostro, dal vivo in acustico. Guarda, volentierissimo. Quando... Il nostro pane è anche quello, il live, quindi magari, certo. Qui una semplice chitarra, ma proponete il disco nuovo, esatto. Che... Bene, avete sentito, fans? Ce l'ha promesso, queste sono parole di Marco. Sì, l'ho detto. Insomma, poi sarà, dovrò chiudere la porta, perché qui sennò altrimenti arriveranno tutte soprattutto le ragazze. Dì la verità, insomma. Sì, guarda, sì. È così, fortunatamente. Comunque, no, beh, guarda, si scherza, ovviamente. È quasi più gratificante vedere sui nostri palchi magari uomini scatenati a cantare tutte le nostre canzoni. È bello vedere che comunque non è solo perché magari siamo carini o possiamo piacere alle ragazze, ma anche perché la nostra musica sì, piace. Sì, no, io stavo scherzando prima, no, ma no, però ci mancherebbe. Però insomma, io ho mia figlia, però, per esempio, che mi ha già detto: papà, se vengono, io li vengo a conoscere perché sono bravissimi. Ma allora la saluto a distanza. Si chiama Silvia, ecco. Credo che abbia grazie, credo che abbia 2 o 3 dischi vostri, quindi insomma. Bene. Poi Marco, il tour è partito molto bene, ho letto sulle cronache, subito è sold out sia a Milano sia a Reggio Emilia, quindi una cosa decisa. Quei tempi che corrono è un risultato, infatti, non da poco, Marco. Infatti, assolutamente, anche perché comunque noi teniamo tanto proprio a quello che è il live. Il live è fondamentale. È fondamentale, quindi finché ascolti il disco è una cosa, ma poi quando vieni al live ti devi emozionare, se non c'è l'emozione la volta dopo non vengono. Fortunatamente ogni anno noi riempiamo questi spazi dove andiamo a suonare, quindi ci divertiamo anche, ovviamente. Cosa cambia, Marco, rispetto al pezzo da disco? Cosa cambiate nel live? Diventa tutto più, lo metto tra virgolette, diventa più rock. Perché magari, per esempio, l'ultimo nostro singolo, che si intitola Sempre, quello, ascoltandolo in disco è molto tendente al dance, diciamo così, cassa in 4, tanti synth. Invece poi in live c'hai la batteria vera, chitarre vere, eccetera, tastiere, quindi diventa molto più vera, chiamiamola così. Bene. E quando comincerà questo tour? Allora, quello invernale, come diceva prima, è finito circa un mesetto e mezzo fa, anche se l'inverno forse è finito. Sì, prosegue. Forse. Certo. Adesso è già iniziato comunque il nostro tour estivo, abbiamo fatto già 2 date in campagna, e comunque basta andare sulle nostre pagine piuttosto che il sito e si trovano tutte le date. Ma quante date avete già in programmazione più? Allora, il calendario è aperto, quindi potete aggiungere quasi 20 sicure in tutta Italia, quindi... Venite anche a Padova? Sicuramente, per le zone. Di solito Padova, magari proprio Padova, no, ma in Veneto verremo sicuramente. Allora, se sarete in zona, ci vedremo di sicuro, vengo a conoscervi. Siete i miei ospiti. Certo, grazie Marco. Allora, questo disco nuovo che esce in inverno. Sì, esattamente. A parte la canzone Sempre. Sempre. Ci puoi dare qualche informazione spifferare? Guarda, ti posso dire qualcosa, ma è ancora talmente acerbo anche per noi che è veramente difficile dirti cose particolari. Ti dico che sicuramente parlerà molto d'amore, come piace fare, e sì, uscirà penso sotto Natale, all'insegna del web, perché fondamentalmente abbiamo messo anche infatti davanti a Sempre questo hashtag, che è questo cancelletto, che su Twitter si usa tantissimo, e penso che anche la nostra promozione di questo album sarà tantissima sul web, perché ormai è quello il futuro, c'è poco da fare. Richiedi, ascolta e tweet sempre. Esatto, tweet sempre. anche voi, come Baglioni, come Ruggeri, tutti quanti stanno giustamente andando sul web. Ormai abbiamo tra social network, non ci capisco più niente neanche io. Ma avete sempre una casa discografica, però, chiaramente. Sì, assolutamente, la Rotta al Tramonto. Sì, esattamente. È la nostra casa discografica ormai da 2 anni e mezzo, e devo dire la verità, sono persone fantastiche, ci seguono, anzi, è diventata anche un po' una collaborazione. Mentre di solito le case discografiche tendono a prevalere, a dire no, decido io, invece no, con loro è molto tutto più malleabile, è molto bello lavorare così. Quindi siete anche liberi di fare quello che volete, tra virgolette. Esattamente, tra virgolette, sì, esattamente. Che è la cosa più bella che ci possa essere. Perché spesso e volentieri sentiamo qualche artista che passa per questi studi dire che sono un po' vincolati, insomma, sono un po' legati da... È vero. Invece no, noi, guarda, ci scambiamo informazioni giornalmente, ufficio stampa, di solito la casa discografica che chiama, hai chiamato la radio? Bene, no, lo chiamo io direttamente, parlo io, certo. È molto bello. Ecco, io già che parli di questa cosa, Marco, io volevo salutare e ringraziare Alex Lagamba, che è un carissimo amico, prima di tutto è un carissimo amico, io collaboro spesso con lui e lo ringrazio per avermi dato questo contatto di questa sera con te. Lo ringrazio anch'io, perché è veramente una persona fantastica, con tanta voglia di fare, questo è bello in questo mestiere che tutti prendono sotto gamba. No, no, ma io lo conosco già da diverso tempo, sai, credo siano già 2 o 3 anni che collaboro con lui, quindi è una grande bella persona, veramente. Ciao Alex, se sei in ascolto magari. Infatti, un abbraccio. Ecco. E allora questa canzone che si intitola Sempre. Sempre. Cosa parla? Parla di... beh, ovviamente d'amore, come ormai penso abbiate capito. Certo. Beh, però no, parla di... praticamente di quando ti trovi a fare degli errori, a non trovare la persona adatta a te, a non trovare l'anima gemella, così detto. Invece poi a un certo punto la trovi e ti ritrovi a vivere in un altro mondo, in un altro pianeta. Quindi questo praticamente è l'argomento principale, l'amore, quello vero, quello, l'anima gemella, la metà della mela, come facevano Aldo, Giovanni e Giacomo nel film. Va bene, ricordiamo comunque allora i componenti, che insomma credo sia doveroso, e anche quello che fanno praticamente. Quindi io parto da Salvatore, Gabriel, Valerio. Sì. Salvatore, lui è ecuadoriano. Lui è originario dell'Ecuador, però vive a Roma, in provincia di Anzio esattamente, ormai da quasi sempre, da quando aveva 12 anni. Ovviamente è bello lavorare con lui perché lui ha proprio le sonorità latine. Uh-huh. Lui vive di latinoamericano, la mamma e la sorella vivono ancora là, quindi è proprio quando riusciamo a mischiare i nostri stili viene quello che poi è lo stile Studio 3, che penso che veramente sia inconfondibile, modestia a parte. Sì, sì. In radio spesso si sente tanta pop, tanta musica, ma siamo riconoscibili, diciamo così, ecco. Sì, questo lo posso confermare anch'io. Allora, Salvatore Valerio Gabriel suona la chitarra, ma c'è anche la voce, il suo... Certo, assolutamente, noi siamo 3 voci prima di tutto. Uh-huh. E poi siamo anche 3 musicisti, nel senso che noi comunque, essendo che scriviamo le nostre canzoni, poi nel live ci piace suonare, anche se abbiamo la nostra band, che sono 4 elementi fantastici. Uh-huh. Però... c'è Gabri che è il chitarrista, anche Vetro è chitarrista. Uh-huh. E io sono il pianista della situazione. Ho visto, hai cominciato a suonare a 6 anni. Sì, esattamente. Quindi ne hai di esperienza sui tasti. Io ho suonato tanto in giro, infatti penso che proprio l'altro ieri guardavo con i miei genitori uno dei primi live, tra virgolette, si può dire, in una TV locale milanese che non esiste neanche più ormai. Avevo 6 anni e cantavo un pazzo, cantavo e suonavo, mi divertivo già da allora. Quindi, Com'è venuta la formazione, il fatto di costruire questo trio, questa formazione? Insomma. Guarda, è venuta, diciamo... Com'è nata questo, voglio dire? Insomma. Quasi per caso, nel senso che noi abbiamo fatto... la storia è un po' più lunga, nel senso che c'era un altro elemento prima di Gabriel. Sì, è vero. E poi è entrato Gabriel a far parte. Comunque... Quello che è la passione per la musica, in uno studio ci siamo conosciuti, pensa, quindi è stata una cosa proprio casuale. Così casuale, e da lì abbiamo iniziato a collaborare, diciamo, per divertimento, che poi è sfociata in questa professione che fortunatamente, infatti mi reputo una delle persone più fortunate al mondo, nel senso che faccio il mio lavoro, è quello che mi è sempre piaciuto fare prima come hobby, quindi certo. È bellissimo. Questi pezzi che sono scritti anche in spagnolo, sì, interessante, esatto. Il mercato latino, Gabriel, esatto. Ha una certa spinta, te l'ha data lui proprio. Sicuramente. Beh, noi siamo stati nel 2006 anche rappresentanti della musica pop a Miami, pop italiana, certo. Quindi noi abbiamo dovuto tradurre tutti i pezzi in spagnolo, siamo usciti anche lì in Sud America, poi abbiamo duettato con una cantante spagnola che è famosa in Spagna. In Italia non molto, però in Spagna sì, abbiamo cantato anche con lei, quindi è stato... ci siamo sempre divertiti, abbiamo cantato in Spagna, in Grecia, quindi molto bello. Sì, è una cosa molto importante, spaziare, andare oltre i confini italiani. Esatto, ma anche perché vedi veramente, conosci altre culture, conosci quello che è la cultura musicale del luogo. Noi a Miami veramente abbiamo trovato, noi ovviamente lì sconosciutissimi, abbiamo fatto 2 locali sold out, perché la curiosità è diversa in confronto qui all'Italia. Là arriva un prodotto nuovo, soprattutto dall'Italia, voglio sentirlo assolutamente, capito? Quello era, certo. Bello. Dicono che l'Italia è la patria della musica, quindi insomma... Infatti, cerchiamo di tenere alto il valore che ormai è innegabile comunque in Italia, sì, noi siamo la patria della melodia proprio. Melodia, sì. Ma tu che sei stato lì, che differenza trovi da lì a qui? Enorme. No, guarda, è enorme nel senso che là la musica è vissuta in tutti, tipo dove ti giri c'è musica. Certo. Quindi se vai in giro per i locali non c'è altro che live, è raro trovare il CD, chiamiamolo così, il disco, quindi ci sono sempre, sia nei locali latinoamericani dove proprio si balla latinoamericano, ci sono le band, qui abbiamo il DJ latinoamericano, capito? Quindi è proprio vissuto il live in un modo diverso, poi il divertimento, lì ascoltano musica dalla mattina alla sera e si divertono ad ascoltarla, a ballarla anche in mezzo alla strada, quindi uh-huh. È molto diverso, però è, vabbè, ognuno è fatto a modo suo, noi abbiamo altri pregi. Cioè, avete toccato indirettamente anche il Giappone con la collaborazione con The Glam, che è una sassofonista e un'autrice, una cantante famosissima in Giappone. Famosissima, tra l'altro adesso ha fatto un duetto con Florida, quindi uh-huh. Cioè, ha preso veramente molto piede, lei è bravissima, quindi beh, è innegabile. Ci piace anche duettare con personaggi che arrivano al di fuori, quindi con culture esterne yes. All'Italia, perché proprio è sempre un accrescimento, giusto? Certo. Esattamente. La, sì, collaborazione è la base di tutto, caro mm-hmm. Marco, assolutamente. Esatto. Collaborare con artisti, anche italiani, ma che hanno successo sì. All'estero, danno un'altra dimensione alle cose. Esatto, è proprio bello, perché anche loro vedono cose che magari collaborano con persone con una cultura anche per loro diversa, noi idem ci confrontiamo, molto bello, molto. Poi ho visto che, cambiando un attimino il discorso, tornando sempre a Gabriel, ho visto che ha scritto delle canzoni per Emma, cioè nell'ultimo suo sì, disco, esatto, abbiamo Schiena. Collaborato, sì sì. E con Antonino, che è un altro mio caro amico, che spero di averlo qui in studio. C'è una band di Padova che gli suona, insomma, quindi... Non lo sapevo. Questo. Sì, sì, c'è tutta la band ex Summertime, tanto per intenderci, insomma. Antonino è poi bravissimo, una voce straordinaria. Guarda. Quindi non vi fate mancare niente, quindi scrivete anche per altri artisti, insomma. No, noi scriviamo, noi collaboriamo con tutti quelli che accettano la nostra musica. Noi diciamo che... Tipo Emma quest'anno ha preso la Chimera, che è il suo nuovo album. Schiena, sì. E, beh, lei era contentissima, noi ancora di più, nel senso, capisci? È bello scrivere anche per altre persone. Certo. E Andrea poi anche lui ha scritto un romanzo dal titolo sì, Ti amo davvero, sì, sì. Esatto, quindi esatto. No, veramente non vi fate mancare niente voi. No, noi no, veramente, ci piace... Tutto quello che è scrittura e arte a noi piace. A noi piace. È bello. Senti, adesso ti chiedo un attimo di silenzio e ti devo fare una domanda. Mi prometti che vieni qui con gli altri due a fare il live in acustico? Te lo prometto. Se non ci sono complicazioni, ma non credo anche assolutamente, sì sì, te lo prometto. Avrete guarda. 90 minuti a disposizione dei vostri Andata. Fans. Dal vivo qui a Blue Radio Band. Senti Marco, noi ti lasciamo andare perché facciamo ascoltare la canzone dal titolo appunto Sempre, e anche perché poi c'è lo spazio per il nostro, che stasera tra l'altro c'è un live in acustico, se ti va di stare nel nostro ascolto, c'è una cantante che ci raggiunge da Honolulu, dalle Hawaii, ci dà Entune in Italia, ci ha dato questa esclusiva in questa radio e ritorna in questa radio perché c'è stata l'anno scorso e ci fa tanto piacere, si chiama Chiana Luna, se avrai voglia di sentirla, e anche una basca a volte, ma soprattutto la sua voce che incanta. Io ti invito a stare all'ascolto se hai voglia. Ecco, va bene Marco, grazie ancora, un in bocca al lupo. Grazie per a voi, un abbraccio e salutami Andrea e Salvatore, ovviamente, cioè Vetro e Gabriel. E Gabriel, sarà fatto. E in bocca al lupo per tutto, insomma. In bocca al lupo a voi e grazie ancora. Adesso ci ascoltiamo la canzone che è il singolo. Sì, Sempre. Sempre, il nuovo singolo degli Studio 3. Ciao Marco, grazie. Ciao Marco, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao. Passi che non lasciano più orme dietro me, occhi in cerca di risposte, prospettive indefinite. Umore instabile. Quanta gente insiste ancora convincendosi che due anime gemelle non potranno mai esistere. Ma in fondo mento no. Yeah, provavo a fare finta di star bene anche da solo, per quante strade abbiamo ancora da percorrere, imparando a superare i tuoi difetti, a cancellare i miei. Non cambieremo mai, oh, yeah. Provavo a fare finta di star bene anche da solo, perché scappare è un'abitudine, yeah. Non è un traguardo ma un percorso a dare senso al tempo, e il resto poi è un limite. Ma non ci credo. Mille storie tutte uguali, e invece poi arrivi te.